04 minuti primi, sempre all'ascolto, questa è Onda Rossa, siamo per collegarci con Londra. E ciao, mi senti? Ciao, buonasera a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, dopo questa, insomma, abbiamo un po' raccontato la giornata di ieri da Microfile Radio, vorremmo, insomma, capire che succederà e cosa succede a Londra il giorno dopo, non solo le grandi manifestazioni, insomma, anche la forte opposizione di piazza, ma anche il fatto che una legge comunque è passata. Una legge è passata in Parlamento, ora si aspetta appunto la decisione della Camera dei Lord martedì, quindi si vedrà. Per ora la risposta che c'è stata, perché ci sono... mi senti? Ci sono comunque 40, all'incirca 40-50 persone all'ospedale. E soprattutto c'è un ragazzo che ha avuto un'operazione di 3 ore la scorsa notte e che è in gravissime condizioni. È ora ricoverato a Charing Cross Hospital, che è appunto uno degli ospedali di Londra, e dove c'è stato e c'è tuttora un presidio sotto l'ospedale. Questo sono, infatti, sono appena ritornata da lì e diciamo che la situazione è abbastanza. Ieri abbiamo raccontato soltanto i fatti fino verso le 8:30 all'incirca, sì. Ma i dimostranti si sono dispersi nella città e ci sono stati appunto manifestazioni all'incirca fino verso le 11:30 a mezzanotte. Alcuni dei dimostranti si sono sparsi per il centro di Londra e hanno... quello che avete già sentito con abbiamo visto le foto, le foto, cioè, apparse sui giornali dell'assalto. Sì, ovviamente l'Italia ha avuto molto riscontro. È stato fantastico. Dell'assalto alla macchina di Carlo. L'assalto alla macchina è stata favolosa, però poi si sono susseguite altre cose. Si sono bloccate alcune delle vie di Londra. La principale via di Londra, che è Oxford Street, piena ancora verso le 7:30-8 di persone che cominciavano a fare lo shopping natalizio, e si è bloccata quella strada. Poi dopodiché i gruppi comunque erano assolutamente spontanei e la polizia non sapeva proprio che cosa fare, perché appunto i gruppi di persone si spostavano da una parte all'altra del centro e la polizia cercava di bloccarli, di fare quello che poi hanno fatto anche a Westminster con 2.000 persone chiuse dentro lo scudo della polizia. Una cosa che poi è continuata fino a mezzanotte, sono stati chiusi lì dentro all'incirca 7 ore e mezzo. Quello che è stato fatto anche il 10 novembre, quando c'è stato l'assalto al quartier generale dei Tori, la stessa cosa che è successa poi il 10 novembre è successo ieri sera, quando appunto facevano passare soltanto una persona per volta e facevano uscire una persona per volta dalla chiusura, insomma, con una fila di 6 metri di polizia, facevano le riprese a tutti quanti quelli che venivano, che passavano, quindi non c'era proprio via di scampo. E il ragazzo che è stato poi colpito a morte, perché veramente tuttora... sembra, quando io ho lasciato il presidio, sembra che il ragazzo abbia ripreso conoscenza in qualche modo, però era in coma farmacologico fino a qualche ora fa. Lui ha tentato semplicemente di uscire dal cerchio di polizia. Quindi la repressione è stata fortissima ieri, è stata fortissima, e hanno cercato, quello che cercano di fare è appunto dividere i dimostranti. Dividono in gruppi, chiudono e poi appunto c'è un'intimidazione fortissima, perché tu immagina una situazione in cui sei chiuso da un forte accerchiamento di polizia per ore, ore, ore, senza né bere né poter andare al bagno o fare qualsiasi cosa che è necessaria ad una persona. Allora, diciamo Una che cosa che hanno fatto e questo l'ho visto con gli occhi miei, perché poi siamo andati verso le 11, 11 e mezza a vedere che cosa succedeva a Westminster, appunto, con le persone che c'erano accerchiate. Una cosa che hanno fatto è portare le persone sul ponte di Westminster, le hanno chiuse e erano completamente compresse, non potevano fare assolutamente nulla, perché la pericolosità che anche molto c'era era pericolosa. altissima. Se qualcuno si fosse soltanto azzardato a fare qualcosa per poter uscire, le persone non potevano scappare da nessuna parte se non buttarsi dal ponte, e che appunto, voglio dire, comunque faceva anche meno 2 gradi a Londra ieri notte, quindi era veramente una situazione tremenda, una situazione in cui non potevano assolutamente reagire in nessun modo. Ora La le prossime. partecipazione, prima volevo fare insomma, una valutazione sulla partecipazione degli studenti, delle studenti alla manifestazione di ieri. Comunque, insomma, anche leggendo su siti, eccetera, mi è sembrato che i commenti fossero di una spontaneità per la prima volta, insomma, in questi mesi molto ampia, soprattutto ieri, di anche ragazzi molto giovani, quindi non soltanto, diciamo così, tutto il movimento degli squatters londinesi o delle persone che sono venute a Londra, ma anche, insomma, di ovviamente il triplicare delle tasse universitarie colpisce anche chi a Londra ci è venuto per studiare, e casomai anche di Londra non è. Allora, innanzitutto volevo, appunto, come ho detto anche ieri sera, la partecipazione degli studenti medi è qui una novità, ed è anche molto spontanea. Poi un'altra cosa fondamentale è che ora i media mainstream stanno cercando di dire che sono appunto gli anarchici di Whitechapel che hanno distrutto le cose. Non è assolutamente vero. Quello che ho visto ieri sera, c'erano persone che hanno reagito appunto alla repressione della polizia, e rompendo anche gli scudi. Cioè, c'è stata una scena in cui veramente io ho pensato, erano ragazzini appunto che cercavano di riprendersi la strada, al grido di Our Street, che appunto questa è la nostra strada, si muovevano dappertutto. La partecipazione degli studenti medi, che appunto non ha una tradizione, nulla a che vedere, non perché le tradizioni sono cosa buona, però non ha una tradizione, quindi non sono organizzati in qualche modo, ed è per questo che è così spontaneo. Tra l'altro, anche l'NUS, che è il Comitato Nazionale degli Studenti, ha in qualche modo diffamato la manifestazione di ieri. E quindi tutte le parti istituzionali si stanno allontanando, appunto, non trovano assolutamente nessun, non danno nessun supporto e nessuna solidarietà alle manifestazioni che ci sono state ieri. Tuttora sono occupate all'incirca 30 università, il che, voglio dire, appunto, ci troviamo sempre in Inghilterra, dove non è così comune la pratica dell'occupazione, se non appunto l'occupazione delle case. E questo appunto in un clima in cui non solo c'è la triplica, cioè si parla di 9.000 pound all'anno per entrare in un'università, che è comunque già adesso è molto classista. Cioè le persone che provengono da scuole non buone o comunque periferiche non possono entrare, non possono accedere in un'università come Oxford e Cambridge, anche se poi anche quelle stesse università, quegli stessi college si sono mossi e si sono mobilitati. Diciamo che Cambridge ha sicuramente una tradizione, secondo me, negli ultimi, soprattutto negli ultimi anni, comunque di averci una coscienza minima, però un minimo di pensiero che va a incrinare anche la fama di Cambridge, comunque alla fine ci sta. Ci sta, però appunto si parla sempre di persone di classe abbastanza agiata che appunto accedono a quell'università. Però si sono mossi, hanno il 24, che è stato appunto il 24 novembre, lo scorso 24 novembre, che è stata la giornata nazionale di mobilitazione nazionale, hanno occupato anche la Bodleian, che è una delle librerie, delle biblioteche più importanti inglesi. Quindi, ma perché questo? Perché non solo c'è appunto la triplicazione delle tasse universitarie, che appunto da 1500 a 3000 pound all'anno si arriva a 9000 pound l'anno, ma c'è anche i tagli per i sussidi, che appunto sono quelli che poi fanno andare le persone all'università. Cioè, qui c'è stato finora un sistema sociale che comunque supportava gli studenti o le persone che volevano andare all'università. E altra cosa fondamentale è appunto i tagli per le case. Cioè, qui ci sono sussidi per l'affitto di case, o comunque c'è anche la possibilità di occupare case senza legalmente. E questo sta cambiando anche molto velocemente, perché se tu immagini che comunque da aprile ad ora, che sono passati pochissimi mesi e la situazione inglese è quasi completamente cambiata, stanno passando velocissime queste leggi. Non solo, poi, cioè, si sta creando proprio un clima di fortezza per l'Inghilterra che riguarda anche la possibilità di avere documenti. Alcune persone accedevano, appunto, cercavano di documenti come appunto documenti permessi di soggiorno, cercavano di entrare all'università, di poter studiare qui anche come facilitazione per avere documenti e per avere permessi di soggiorno. Ora non è proprio così facile, anzi, sta aumentando proprio il prezzo per entrare, per accedere non solo all'università, ma anche alla stessa Alla Gran città, Bretagna. Sì, non ci riesce manco ad assolutamente. arrivare in Gran Bretagna. Cioè, non ci vanno Senti, neanche. visto che dobbiamo quasi chiudere, che succederanno? Insomma, comunque, però, questa legge in Parlamento è passata. Sicuramente le Allora, mobilitazioni non sono le terminate. mobilitazioni non sembrano terminate. Ora c'è una chiamata per comunque per ora si sta cercando anche, perché il problema è che dopo che c'è stato l'assalto al quartier generale dei Tory, l'intelligence inglese fa questa cosa, cioè non solo ti arresta e ti ferma durante la manifestazione, ma ti vengono a prendere a casa successivamente, attraverso appunto riconoscimento di fotografie e video. Dopo l'assalto al quartier generale dei Tory, c'è stato successivamente all'incirca 140 persone fermate. Quindi si ha un po' paura appunto della repressione successiva. Ci sono stati Diciamo che 140 Cameron arresti. ha anche minacciato, insomma, ha anche detto che ci sarà, insomma, l'ha anche detto. Sì, perché appunto, cioè, non c'è nessun supporto a livello istituzionale, tantomeno dell'Unione degli E Studenti doveva, di una no, facoltà. calcolando insomma che questo primo ministro doveva essere anche l'innovazione, insomma, quella ventata a sinistra, tra virgolette, in Inghilterra. No, Insomma, così però insomma si comunque, paventava cioè, sul se si giornale. aveva, cioè, subito appena entrata al governo, comunque si è avuto il paura perché comunque il programma di governo era questo, eh. Cioè, no, anzi, tra l'altro, loro un'altra cosa fondamentale, un altro punto del governo è proprio l'immigrazione. Quindi sarà sempre più difficile e ci saranno sempre più restrizioni. Una cosa che appunto, altre mobilitazioni che ci saranno, c'è si stava parlando al presidio di un presidio davanti Scotland Yard, che è la sede della polizia a Londra, e martedì prossimo. Quindi questo per ora, questo è per ora gli aggiornamenti. Si vedrà poi successivamente, ci saranno poi altri aggiornamenti in questi giorni.